Io sono qui al presidio con le lavoratrici e i lavoratori delle due società, Bologna Servizi Cimiteriali e Bologna Servizi Funerari. Come si è prodotta questa situazione? In realtà il problema è che BSC, Bologna Servizi Cimiteriali, che è la partecipata del comune, è il socio di maggioranza al 51%. Il 49% è un socio privato che ha la capacità di bloccare l'approvazione dei bilanci delle due società. In questo modo si è creato uno stallo che appunto non si riesce a erogare lo stipendio e la produttività alle lavoratrici e lavoratori, ma è un fatto grave anche per tutta la città, perché non si riescono a fare gli investimenti che sono già programmati, i soldi già stanziati. Quindi diciamo che la certosa è ferma e se ci sarà un guasto non si riuscirà a ripararlo e non si riesce a dare avvio alla terza linea del forno crematorio. Quindi è una società solida, ha fatto degli utili, però è tutto bloccato in questo momento. Nei giorni scorsi hai presentato anche interrogazioni, insomma, per questa situazione, e dici che il problema viene da lontano, in realtà non è, diciamo, degli ultimi tempi. Sì, il problema viene da lontano, da quando appunto è entrato il socio privato e quindi c'è stato il passaggio da ERA, e soprattutto pare che non sia definito bene il perimetro di operazione da parte del socio privato, e quindi riesce in questo modo a bloccare un po' tutto. Infatti ci sono vari ricorsi, io ho fatto diversi interventi in consiglio, ho fatto delle interrogazioni, ma il comune fino adesso è stato molto abbottonato, non ha dato mai delle risposte chiare e precise. Io sono qui, sto aspettando, perché dovrà scendere qualcuno per dare delle risposte alle lavoratrici e ai lavoratori. Si vorrebbe che il comune creasse una società in house, in modo da liberarsi del socio privato, perché andare avanti così fino al 2043 penso che sia impossibile per la città di Bologna. Il servizio cimiteriale funerario è un servizio pubblico, però gestito appunto con una partecipata, e abbiamo visto i problemi che si sono creati. Forse la formula di gestione deve essere ripensata. Come dicevo prima, assolutamente si sta vedendo che così non funziona, e io spero che il comune faccia questo passo di creare una società in house, coinvolgendo anche i comuni piccoli, che sono i comuni intorno a Bologna, in modo di allargare anche il perimetro, visto che i comuni piccoli hanno difficoltà nella gestione dei cimiteri. Quindi si potrebbe pensare a una soluzione del genere. Spero che il comune lo faccia al più presto, visto che la consigliatura è agli sgoccioli.